ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Tanto in tanto, Martin dava un'occhiata alle riviste e ai quotidiani per vedere come maltrattavano Efemera. Aveva fatto davvero colpo, eh? Ma che colpo! Tutti l'avevano letta e tutti discutevano se fosse oppure no vera poesia. I giornali locali avevano deciso di prendere parte al dibattito e ogni giorno apparivano colonne di critici ufficiali, editoriali spiritosi e serie lettere scritte da abbonati. Helen della Del Mar, proclamata tra squilli di trombe e rulli di tamburi la più grande poetessa degli Stati Uniti, negò a Brissenden un posto di fianco a lei nel Parnaso e scrisse prolisse lettere pubbliche per dimostrare che Brissenden non era un poeta. The Parthenon, nel numero successivo, cantò le proprie lodi per lo scompiglio che aveva provocato, irrise Sir John Value e sfruttò senza vergogna la morte di Brissenden per scopi commerciali. Martin ebbe molte occasioni per essere contento che Brissenden fosse morto. Il suo amico aveva odiato così tanto la massa, e qui tutto ciò che di più nobile vi era stato in lui, tutto quello che per lui era stato più sacro, veniva gettato in pasto alla massa. Ogni giorno si vivisezionava la bellezza. Qualsiasi imbecille nell'intero paese si sentiva autorizzato a veder stampate le proprie opinioni. Sull'onda della grandezza di Brissenden, ego meschini e avvizziti cercavano di risalire a galla davanti allo sguardo del pubblico. Uno dei giornali affermava: «Abbiamo ricevuto una lettera da un gentiluomo, il quale qualche tempo addietro ha scritto una poesia simile a Efemera, soltanto migliore di quest'ultima». Un altro giornale, moralmente serio, rimproverava Helen della Del Mar per la parodia, sostenendo: «Senza alcun dubbio, la signorina Del Mar l'ha intesa come una celia, senza preoccuparsi in quel momento del rispetto che un grande poeta deve mostrare a un altro grande poeta, forse al più grande. Ad ogni modo, sia che la signorina Del Mar sia gelosa oppure no dell'uomo che ha inventato Efemera, è certo che anche lei, come migliaia di altri, è affascinata dall'opera di Brissenden e che forse verrà il giorno in cui lei cercherà di scrivere versi simili a quelli». Anche la Chiesa, con i suoi pastori, iniziò a predicare contro Efemera, e uno di essi, per aver difeso con troppa tenacia buona parte del suo contenuto, fu espulso per eresia. Quella grande opera contribuì anche alla gaiezza del mondo. Oh, gli scrittori di versi comici e i disegnatori di fumetti se ne impossessarono con le loro fragorose risate, mentre le colonne dei settimanali popolari si riempirono di battute sull'argomento. Ve n'era una in cui Charlie Frensham diceva ad Archie Jennings, in confidenza, che 5 versi di Efemera spingerebbero un uomo a picchiare un paralitico e 10 versi lo spedirebbero sul fondo di un fiume. Martin non rideva e neppure digrignava i denti in preda alla rabbia. Provava solo una grande stanchezza nel generale crollo dell'intero suo mondo e dell'amore per primo. Ma il crollo del regno delle riviste e del pubblico non era altro che una piccola frana. Il giudizio di Brissenden sulla stampa si era rivelato esatto, mentre a lui, Martin, erano stati necessari anni ardimentosi e inutili per scoprirlo. Il mondo della stampa era proprio come lo aveva descritto Brissenden, e anche peggio. Bene, se non altro, era finita, si consolò Martin. Era stato troppo ambizioso e si era ritrovato tra i miasmi di una palude. La visione di Tahiti, pura, dolce Tahiti, gli appariva con sempre maggior frequenza. Là c'erano le basse isole Paumotu e le alte coste delle isole Marchesi. Ora gli capitava spesso di vedersi a bordo di golette mercantili o di fragili e piccole lance che scivolavano all'alba attraverso le barriere coralline di Papeete per iniziare il loro lungo giro attraverso gli atolli ricchi di perle. Là, Tamari, e Martin lo sapeva bene, avrebbe ucciso un maiale in suo onore. E là, le figlie di Tamari, ornate di ghirlande di fiori, gli avrebbero preso le mani e avrebbero adornato anche lui di ghirlande tra canti e risate. I mari del sud lo stavano chiamando e, presto o tardi, Martin avrebbe risposto alla loro chiamata. Nel frattempo si lasciava trasportare dalla corrente, si riposava e recuperava energie dopo la lunga traversata del regno del sapere. Quando arrivò l'assegno di $350 di The Parthenon, Martin lo consegnò al legale che si era occupato della morte di Brissenden per conto della famiglia. Gli fu data una ricevuta e lui, a sua volta, lasciò un'annotazione per i $100 che l'amico gli aveva prestato. Era vicino il momento in cui Martin avrebbe smesso di frequentare gli economici ristoranti giapponesi. Proprio nel momento in cui aveva deciso di abbandonare la battaglia, la sorte mutava. Ma era troppo tardi. Martin aprì senza alcuna emozione una sottile busta inviatagli da The Millennium e esaminò l'assegno in essa contenuto, che rappresentava la somma di $300, constatando che costituiva il pagamento anticipato di avventura. Tutti i debiti che aveva al mondo, inclusi quelli con il negozio dei pegni e i suoi interessi da usuraio, ammontavano a meno di $100. Dopo averli pagati e dopo aver lasciato una banconota da 100 al legale della famiglia Brissenden, Martin aveva ancora più di $100 in tasca. Ordinò un nuovo completo dal sarto e prese a mangiare nei migliori locali della città. Continuava a dormire nella sua piccola stanza a casa di Maria, ma alla vista dei suoi abiti nuovi, i ragazzini del quartiere smisero di chiamarlo pezzente e scroccone. Wiki Wiki, il racconto hawaiano, fu comprato da Warren's Monthly per $250. The Northern Review scelse il suo saggio La culla della bellezza e Macintosh Magazine volle La chiromante, la poesia dedicata a Marian. Editori e lettori erano tornati dalle loro vacanze estive e i manoscritti passavano di mano in mano rapidamente. Ma Martin non riusciva a comprendere da quale strano ghiribizzo quegli uomini fossero ora animati. Quel ghiribizzo li spingeva ad accettare sistematicamente cose che avevano rifiutato per ben 2 anni. Nulla di ciò che Martin scriveva era mai stato pubblicato. Per di più, lui era conosciuto solo ad Auckland, e ad Auckland, tra i pochi che lo conoscevano, era famoso per essere un rosso e un socialista. Non riusciva a spiegarsi questo improvviso successo delle sue mercanzie. Non poteva essere altro che una beffa del destino. Quando un buon numero di riviste rifiutarono La vergogna del sole, Martin decise di seguire il consiglio di Brissenden e iniziò a inviare il suo saggio alle case editrici. Dopo alcuni rifiuti, Single Tree, Dunley e Company lo accettarono, promettendo di pubblicarlo entro l'autunno. Quando Martin chiese un anticipo sui diritti d'autore, gli editori gli risposero che non era loro abitudine darlo, che i libri di quel genere raramente pagavano le spese e che dubitavano che il suo libro potesse vendere anche solo 1000 copie. Martin calcolò quale avrebbe potuto essere il guadagno di una simile tiratura. rivenduta ad un dollaro. Con una percentuale per lui del 15%, il suo libro gli avrebbe fatto guadagnare $150. Alla luce di quel risultato, Martin decise che, se mai avesse ripreso a scrivere, si sarebbe limitato alla narrativa. Avventura, lunga un quarto del saggio La vergogna del sole, gli aveva fatto ottenere da The Millennium il doppio. Quell'articolo di quotidiano che aveva letto molto tempo prima, dopotutto, non aveva mentito. Le riviste di prima classe pagavano in anticipo e pagavano bene. The Millennium lo aveva pagato non 2 centesimi a parola, bensì 4. E inoltre quelle riviste compravano anche cose di qualità. Non avevano forse comprato le sue? Quest'ultimo pensiero lo accompagnò con un sogghigno. Martin scrisse a Singletree, Darnley e Company, proponendo loro di pagargli i diritti de La vergogna del sole un centinaio di dollari, ma gli editori non se la sentirono di correre neppure quel minimo rischio. Nel frattempo a Martin non mancava certo il denaro. Molti dei suoi ultimi racconti erano stati accettati e pagati. Aveva addirittura aperto un conto in banca dove, senza un solo debito al mondo, si trovavano depositati centinaia di dollari. Anche tempo scaduto, dopo essere stato rifiutato da un buon numero di riviste, si era fermato alla Meredith Lowell Company. Martin, ricordando i $5 che Gertrude gli aveva prestato e la propria promessa di restituirglieli moltiplicati per 100, scrisse alla casa editrice richiedendo un anticipo di quella cifra. Con sua grande sorpresa, un assegno per quell'esatto ammontare, accompagnato da un contratto, gli fu inviato a giro di posta. Martin incassò l'assegno in monete d'oro da $5 e telefonò a Gertrude, dicendole che voleva vederla. E Gertrude arrivò ansando e con il fiato corto, da tanto si era affrettata. Temendo che il fratello fosse nei guai, aveva ficcato i suoi pochi risparmi nel borsellino. La donna era così certa della disgrazia che, quando si trovò davanti il fratello, gli cadde tra le braccia piangendo, porgendogli contemporaneamente il piccolo borsellino, senza pronunciare una sola parola. «Sarei venuto io», le disse Martin, «ma volevo evitare una discussione con il signor Higginbotham, e se lo avessi incontrato non sarebbe stato possibile. Basta solo che aspetti». «Poi andrà tutto a posto», le assicurò Gertrude, sempre domandandosi in quali guai si trovasse Martin. «Ma è meglio che prima ti trovi un lavoro e metti la testa a posto. A Bernard non piace mica vedere un uomo che non ha un lavoro onesto. E quelle cose sul giornale l'hanno fatto andare fuori di matto. Non l'ho mai visto così arrabbiato». «Non ho intenzione di trovarmi un lavoro», le rispose Martin sorridendo, «e puoi riferirglielo da parte mia. Non ho bisogno di un posto, ed eccotene la prova». Martin riversò nel grembo di Gertrude le 100 monetine d'oro in una corrente tintinnante e dorata. «Ti ricordi di quei $5 che mi hai dato, quando non avevo neppure i soldi per il tram? Bene, eccoteli qui, insieme a 99 fratelli di età diversa, ma di uguali dimensioni». Se Gertrude, quando era arrivata, era preoccupata, ora era in preda al panico. Le sue paure si trasformarono in certezze. Non era più sospettosa, era sicura. Guardò Martin con orrore, mentre le sue cosce pesanti si ritraevano da quella corrente d'oro come se bruciasse. «Sono tutti tuoi», Martin le disse ridendo. Gertrude scoppiò in lacrime e iniziò a lamentarsi. Mio povero ragazzo!» Martin restò interdetto per un attimo. Poi capì la causa dell'agitazione di sua sorella e le consegnò la lettera della Meredith Lowell che accompagnava l'assegno. La donna la lesse, incespicando, fermandosi di tanto in tanto per asciugarsi gli occhi, e quando ebbe finito disse: «Questo vuol dire che hai avuto quei soldi onestamente?» «Più onestamente che se li avessi vinti ad una lotteria. Li ho guadagnati». Lentamente Gertrude iniziò a tranquillizzarsi. Volle leggere la lettera una seconda volta, e Martin ebbe bisogno di molto tempo per spiegarle la natura della transazione che gli aveva permesso di guadagnare quei soldi. Ma ebbe bisogno di ancora più tempo per farle capire che quel denaro era davvero suo, che lui non ne aveva alcun bisogno. «Li metterò in banca per te», disse infine Gertrude. «Non farai niente di simile. Quei soldi sono tuoi, per spenderli come ti piace. Se non li vuoi, li darò a Maria. Lei saprà cosa farne, però io ti consiglierei di pagarti una domestica e di prenderti un lungo periodo di riposo». «Racconterò tutto a Bernard», annunciò Gertrude, mentre stava per tornare a casa. Martin fece una smorfia e poi sogghignò. «Fallo», disse. «Forse dopo questa notizia mi inviterà di nuovo a cena». «Sì, lo farà. Sono sicura che lo farà», esclamò Gertrude con entusiasmo, mentre tirava Martin verso di sé per abbracciarselo e baciarselo. Rese conto di sentirsi solo. Era in perfetta salute, era forte, ma non aveva nulla da fare. L'avere smesso di scrivere e di studiare, la morte di Brissenden, la fine della relazione con Ruth, avevano lasciato un grande vuoto nella sua vita. Né lui poteva permettere che la sua vita si riducesse a oziare nei caffè e a fumare sigarette egiziane. In verità, i mari del sud lo stavano chiamando, ma Martin sentiva che la sua partita lì negli Stati Uniti non era ancora conclusa. Entro breve due suoi libri sarebbero stati pubblicati e poteva pubblicarne altri ricavandone parecchi soldi. Così Martin decise che avrebbe aspettato e avrebbe portato con sé nei mari del sud un sacco pieno di soldi. Nelle isole Marchesi conosceva una vallata e una baia che poteva acquistare per un migliaio di dollari cileni. La baia a ferro di cavallo si incuneava nella vallata, più o meno 10.000 acri, la quale a sua volta si distendeva fino ai piedi di alcuni picchi rocciosi. Quei picchi raggiungevano altezze vertiginose ed erano incoronati dalle nuvole. La valle era piena di alberi da frutta tropicali, di uccelli selvatici buoni da mangiare, di cinghiali. Di tanto in tanto era attraversato da una mandria di bovini selvatici, mentre sulle montagne branchi di cani selvatici tormentavano mandrie di capre selvatiche. L'intero paese era selvatico. Non vi abitava un solo essere umano. E lui avrebbe potuto comprarsi quella vallata e quella baia per un migliaio di dollari cileni. La baia, per come Martin la ricordava, era davvero magnifica. Le acque erano sufficientemente profonde per accogliere anche le navi più grandi e così tranquille che il portolano del Pacifico meridionale la raccomandava come il miglior luogo di carenaggio nel raggio di centinaia di miglia. Avrebbe comprato una goletta, una di quelle simili agli yacht, con la chiglia in rame che filavano nel vento come demoni, e avrebbe commerciato in copra e perle con le altre isole. La vallata e la baia sarebbero diventate il suo quartier generale. Vi avrebbe costruito una grande casa patriarcale fatta di canne, come quella di Tati, e avrebbe riempito la casa, la valle e la goletta di servitori dalla pelle scura. Là avrebbe ricevuto la gente di Taioae per il commercio, i capitani dei velieri mercantili e tutto il meglio della marmaglia del Pacifico meridionale. La sua casa sarebbe stata sempre aperta e lui avrebbe ricevuto come un principe. Avrebbe dimenticato i libri che aveva studiato e quel mondo che si era rivelato un'illusione. Per fare tutto ciò, Martin doveva restare in California e attendere che il suo sacco si riempisse di monete, di quelle monete che vi si stavano già riversando. Se uno dei suoi libri avesse avuto successo, forse avrebbe trascinato con sé tutto il mucchio dei manoscritti. Avrebbe anche potuto raccogliere i suoi racconti e le sue poesie in volumi e così assicurarsi la vallata, la baia e la goletta. Non avrebbe scritto mai più. Era una decisione irrevocabile, Ma nel frattempo, in attesa che i suoi libri fossero pubblicati, doveva fare qualcosa di più che vivere stupido e stordito in quella sorta di impenetrabile trance nella quale era caduto. Domenica mattina, Martin lesse che il picnic dell'Associazione dei Muratori si sarebbe tenuto quel pomeriggio stesso allo Shell Mound Park, e lì si diresse. Prima di allora, nella sua vita precedente, era stato troppo spesso ai picnic delle associazioni operaie per non sapere di che cosa si trattasse. Mentre entrava nel parco, provava come una recrudescenza di vecchie sensazioni. Dopotutto, quelle persone, quei membri della classe operaia, erano la sua gente. Era nato tra loro, aveva vissuto tra loro, e anche se se n'era allontanato per un po', era bello ritrovarsi di nuovo tra loro. «Se quello non è Mart!» sentì qualcuno esclamare, e l'istante successivo avvertì il calore di una mano sincera appoggiata sulla sua spalla. «Dove te ne sei stato tutto questo tempo, per mare?» «Coraggio, andiamo a farci un bicchiere!» Si era ritrovato nella sua vecchia compagnia. Qua e là c'era un'assenza, qua e là una faccia nuova. Nessuno dei ragazzi era un muratore, ma, come ai vecchi tempi, partecipavano a tutti i picnic della domenica per i balli, le risse e il divertimento. Martin beve con loro e iniziò a sentirsi di nuovo davvero umano. Era stato un pazzo a lasciarli, pensò. La sua vita sarebbe stata molto più felice se fosse rimasto con loro e avesse lasciato stare i libri e la gente che siede nei posti più alti. Eppure, la birra non sembrava più così buona come in passato. Non aveva più lo stesso sapore di una volta. Forse Brissenden lo aveva viziato, concluse, e si chiese se, dopo tutto, i libri non l'avessero reso troppo raffinato per le compagnie della sua giovinezza. Martin decise che no, non era diventato troppo raffinato, e si diresse verso il tendone dove si ballava. Vi incontrò Jimmy, l'idraulico, in compagnia di una ragazza alta e bionda, che, senza pensarci due volte, lo abbandonò per Martin. «Ehi! Era così anche ai vecchi tempi», spiegò Jimmy alla banda, che, non appena Martin e la bionda erano scivolati via sulle note di un valzer, aveva iniziato a prenderlo in giro. «E non me ne importa un fico secco. Sono troppo dannatamente felice di rivederlo. Ah, li guardate ballare, eh? Ah, vanno come seta. Bisogna capirle, queste ragazze». Ma Martin restituì la bionda a Jimmy, e tutti e tre, insieme a una dozzina di amici, si misero a guardare le coppie piroettanti, tra risate e battute. Tutti erano felici di rivedere Martin. Nessun libro era stato pubblicato, nessun valore fittizio era andato ad aggiungersi a quelli che loro già riconoscevano a quel loro vecchio amico. Lo amavano per come era, e Martin si sentiva come un principe tornato dall'esilio. Immerso in quel calore, il suo cuore solitario si riapriva alla vita. Fu una grande giornata e Martin diede il meglio di sé. In più aveva le tasche piene di soldi e, come ai vecchi tempi, quando era appena tornato dal mare, con l'intera paga tra le mani, poteva permettersi di essere generoso. A un certo punto, sulla pista da ballo, Martin intravide Lizzie Connolly, che volteggiava tra le braccia di un giovane operaio. Più tardi, mentre gironzolava per il padiglione, la incontrò seduta a uno dei tavoli del buffet. Finite le esclamazioni di sorpresa e i saluti, Martin la condusse verso il prato, dove avrebbero potuto parlare senza dover urlare per sentirsi sopra il frastuono della musica. Dall'esatto momento in cui lei le aveva parlato, Lizzie era stata sua, Martin lo sapeva. E lei lo mostrava nell'orgogliosa umiltà del suo sguardo, nel modo in cui pendeva dalle labbra di lui e in ogni carezzevole movimento di quel corpo dal portamento così orgoglioso. Lizzie non era più la ragazza che lui aveva conosciuto. Era diventata una donna, e Martin notò che la sua selvaggia, insolente bellezza era migliorata. Non aveva perso nulla della sua selvatichezza, mentre la spavalderia e il fuoco sembravano essere più sotto controllo. «Una bellezza, una vera bellezza», mormorò con ammirazione, senza farsi sentire, e sapeva che quella ragazza gli apparteneva, che doveva solo dirle «vieni» e lei sarebbe andata con lui in capo al mondo, ovunque lui la conducesse. Mentre quel pensiero stava ancora attraversandogli il cervello, Martin ricevette sul lato della testa un colpo tanto forte che quasi cadde a terra. Era il pugno di un uomo, tirato con tale precipitazione e da qualcuno così arrabbiato da mancare la mascella, il suo vero bersaglio. Martin, ancora barcollante, si girò e vide un altro pugno dirigersi verso di lui, spinto da una foga selvaggia. Istintivamente si piegò e il pugno lo oltrepassò senza colpirlo, facendo ruotare su se stesso l'uomo che lo aveva sferrato. Martin, con la sinistra, tirò un gancio che piombò sulla figura ruotante, portandosi dietro tutto il peso del suo corpo. L'uomo cadde a terra su un fianco, ma balzò di nuovo in piedi per attaccare selvaggiamente. Martin ne vide i tratti della faccia distorti dalla passione e si chiese quale potesse essere la causa di quella furia. Mentre se lo chiedeva, sferrò un sinistro al suo avversario, potenziandolo con il peso del proprio corpo. L'uomo cadde all'indietro, crollando a terra come un sacco. Jimmy e gli altri della banda stavano correndo verso di loro. Martin fremeva. Era proprio come ai vecchi tempi, con le danze, le risse, il divertimento, ma con qualcosa in più. Mentre teneva d'occhio il suo avversario, diede un'occhiata a Lizzie. Di solito, quando gli uomini venivano alle mani, le ragazze gridavano, ma lei non l'aveva fatto. Lizzie stava guardando, e il suo interesse era tale che tratteneva il respiro e si sporgeva in avanti per vedere meglio. Teneva una mano stretta al petto, aveva le guance arrossate, e nei suoi occhi si riflettevano ammirazione e meraviglia. «Quello là è Martin Eden! Ha dei guantoni con i fiocchi! Lascia che te lo dica, e ti mangerà vivo se continui a giocarci!» «Non me la può portare via così!» si intromise l'altro. «Quello ha steso l'olandese volante, e tu lo conosci!» continuò a spiegargli Jimmy. «E l'ha fatto in 5 round! Non dureresti un minuto con lui, ma lo capisci o no?» Quell'informazione sembrò calmare il giovane infuriato, e soppesò Martin con lo sguardo. «Non si direbbe», sibilò. «Era quello che pensava pure l'olandese volante», gli assicurò Jimmy. «Avanti, dai, vediamo di farla finita, eh? Ci sono un sacco di altre ragazze. Coraggio, dai, andiamo». E il ragazzo lasciò che lo portasse verso il tendone, e il gruppo lo seguì. «Chi è?» chiese Martin a Lizzie. «E che cosa sta succedendo, per l'esattezza?» Il gusto del combattimento, che in passato era stato così piacevole e duraturo, era già svanito. Martin scoprì di essere diventato introspettivo, troppo per vivere semplice di cuore e di mente un'esistenza così primitiva. Lizzie scosse la testa. «Non è nessuno», disse. «Solo uno che mi fa compagnia». «Ho dovuto. Vedi», gli spiegò dopo una pausa, «stavo diventando parecchio sola, ma non ho mai dimenticato». La voce era diventata più bassa e lì si guardava dritto davanti a sé. «Lo mollerei subito. Per te». Martin guardò quella faccia girata dall'altra parte, consapevole che tutto ciò che doveva fare era tendere la mano e prenderla. «Gliele hai suonate, eh?» disse allora Lizzie, ridendo, ma incerta. «Però è davvero un tipo ben piantato», ammise Martin con generosità. «Se non l'avessero tenuto, me la sarei vista molto brutta». «Chi era la signorina che era con te quella sera?» chiese Lizzie all'improvviso. «Oh, solo un'amica», disse lui. «È stato molto tempo fa», mormorò lei, meditabonda. «Sembrano passati 1000 anni». Martin non approfondì l'argomento,